certa maniera, tu lo usi in un'altra, e quindi è così. Va bene, va bene. Adesso chiudiamo questa radio. Adesso la chiudiamo, volevo controllare altre cose, ma no, non ho altro da controllare. Sto, ecco, c'è la scheda, ecco, però non vedo niente da poter aprire e chiudere. Ma va bene in modulazione, poi a 5 watt è proprio bella piana, chiara, modula meglio, il modulatore a 5 watt lavora in proporzione, no? I watt del modulatore audio sono più abbondanti e quindi la modula perfettamente al 100%. Infatti mi l'ho messa a 5 watt, così è perfetto. X Power 013. Eccolo qua, 5 watt. No, 5 watt perfetti, perfetti, tanto no, non è che debba fare niente di particolare. Questo è il microfono normale, Vittu. Microfono normale, questo è un Intec 3104AF, capito? Va bene, avanti, Anton, riprendi. Ma chi se lo attacchi, se vi dai, l'U747 c'è una bomba, c'è un apparecchio. Con pochi watt e c'è una radio, cazzo, che è una cosa impressionante. Ehi, vabbè, ma no, cosa? Sono radio vintage che sto mettendo a posto per averle tutte funzionanti. Quando vuoi fare due passaggi, le fai, niente di che, capito tu? No, non ci devo mettere niente qua, sono tutte da una parte, in una base, senza alimentatori, con la scrivania, con l'alimentazione a 220, la scrivania sua, la parte HF è un'altra cosa, non voglio aver rotto le palle, dai. Devo metterle il microfono da tavolo, però ti posso garantire che è così, col microfono normale, su originale, esce bene. Non c'è problema. Va bene, dai che lo chiudo, non so se rimane Vittorio, ma io la chiudo questa radio, se no poi è un casino. Beh, sono qua comunque, ok? Ci sentiamo, ciao a tutti. Ma come va un po' questo dicendo, Vittorio? Non è da... Ascolta, lo stavo dicendo, anche questo è un Alan, il microfono, è lo stesso di quelli palmari a saponetta. Buona la radio, sì? Ah, bomba, no. Non c'è problema, ottimo per la truppa e per tutta la compagnia, cambio. Bene, Meda, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao Vittu, ciao. Anto, se mi dai il tempo di chiuderla poi ci risentiamo, ok? Vai. No, stavo dicendo a Vittorio Giove, cos'è? Una mano, la mantova stai uscendo. Era una mantova, l'ho modificata. Sono rimasti Mantova 1, cioè 36 anni sul tetto, anche capattata a 45 gradi. È buone come antenne. Capolo, veramente buone. Una vita sul tetto e funziona ancora. Sì, no, sono verticali, sono le migliori in assoluto, hanno provato a imitarle, ma la Sigma se li è magnati tutti, come il cane Roma, se la magnava in un boccone. Lo so. Comunque qua sei quasi a fondo scala, c'è una bomba, sì. Veramente, che zona sei? In zona Corso Vico, qua. Cosa sta succedendo? A 5-9 ti ricevo io, 5-9, 5-9-20 mi sembra. 5-9 più 20, Barameda, è meglio così, vuol dire che va bene. La radio pulita, sì, quello mi interessa, se va bene, non sia il modulatore, perché me l'hanno dato, dice non usciva la modulazione. Chi è quello? Franco è. Franco! Ma sei a Tassarimano, Franco, sì. Capitana! sei sceso di segnale, occhio. Un po' bassino di segnale, Santiago 4, sì. Sì, sì, è crollato di segnale qua. Occhio, Anto, controlla. Ciao anche a Vittorio e a Franco. Dai, sono in cucina, riprendete, vai Vittorio. Tu sei quello che mi arriva più forte, dai. Siamo più vicini, così è. Via le Trento alta, dai Vittorio. Ancora questa parte. Sì, la modulazione va bene, diciamo che è abbastanza carica di bassi, è tutto lì. Vabbè, quella è la voce mia da uomo maschio, se ero femminuccia avevo gli accuppi, no? Vabbè, molto carica di bassi, però sta uscendo, che è un bijou, cioè sta uscendo volume, ce n'è volontà. Ok, dai, sono in cucina, riprendete, vai California. Abbassa, devi abbassare la radio, abbassa, o ti chiamo il carabinieri e ti faccio schiacciare, hai capito? Bello bello. Cosa vuol dire? Se il modulatore modula troppo, perdi chiarezza, perdi intelligibilità, abbassa. Va molto meglio, ma abbassa ancora perché te sta sbiascica, abbassa. Guarda di quella puttana, cazzo! Abbassa ancora! Non sta abbassando una mazza, abbassa! Non ha abbassato niente, non ha cambiato niente! Guarda che stai girando qualche rotella finta disegnata sulla carta, ti sei imbagliato! Bassa, o parli più a voce bassa, o parli più lontano, abbassi mai che niente. E non so, già, a momenti ti riconoscevo che sei tu. È sempre troppo alta, se parli più a voce bassa e più lontano dal micro può andare bene così, se no la devi ancora abbassare. Cosa ti è successo, Anto? Meglio bagassa che ti ha fatto. Ma mi ci sono salito le stazionarie, cazzo! Adesso ci è rimesso a posto, non so cosa cazzo sia successo. Vai e vieni, Anto, vai e vieni. Ti sento in falso contatto. Scende o sale il segnale a momenti. E dove? Il mio? No, no, Antonio dico. Ah, boh, non ho notato. Prova, Anto. Qualcosa si è mollata. Col vento. E c'è una raffica di vento un po' forte, a tu, qualcosa si è mollato, io te l'ho giudito che quel sistema lì non è molto affidabile, bisogna farlo un po' più affidabile. Come dicevo io, la ringo della LEM dopo un anno l'ho tolta per disperazione. Per stanchezza, stavo più sul petto che a casa. E io. Mi sei pirato, Lamento per fatta la migliore affidabilità, a parte la resa, ma l'affidabilità. Negli ultimi 30 anni sono poche le case dei CB radioamatori che non avevano una. E Sirtel com'era all'epoca, negli anni d'oro? C'era un bava, ma se paragonata non c'era un bava. Ragazza, vita criata! Anto, dai, fallo con calma, se vuoi ci spostiamo. Ma se proprio lo devi fare, fallo con la calma. Continuate, dai, che vado a vedere cosa cazzo è successo. Perché buio mio c'è vento. Zavorrati, Anto, zavorrati. Quindi, dove siete andati a finire? Ma ci siamo. C'hai anche tu e chiami a voi. No, non mi sentivo più. Sto sempre parlando. No, stai parlando, ci rimuto, vedi. Vabbè. Quello è andato a vedersi l'antenna. Oh, a vedersi l'antenna è andato. Allora già va bene. A Romuggio, un vento, è una festa. Vabbè. Ecco qua, io ho il microfono normale. Diceva che questa radio è finita, va bene. Domani salgo sul tetto, vai. E la Fagosa? Cosa cazzo è successo? Non lo so, tu. Adesso torna 1:01 di stazionaria. tanto praticamente è ricalato da liscio, da 9.25 è ricalato a 9.15. E per un attimo durante la trasmissione ti faceva proprio il falso contatto, passavi 9.15 e 9.25, quindi c'è qualcosa che fa gioccoli. Si è mollato lo sub, no? Sì, con l'antenna, l'ho avuto anch'io per carità, un anno ho resistito anche troppo, poi data per pezzi di ricambio, per la pompone l'avevo regalata. Adesso vedo che sta andando bene. Allora, da me si era mollato lo stilo dal quell'isolatore nero. Si era proprio mollato lo stilo e era tenuto a malapena dalla spirale quasi. Rischiava di cadere anche. Ma hai visto com'è fatto quell'isolatore? Ci hanno messo un goccettino di colla, silicone, quello che è. Ma per carità. Sono un po' incazzato già. Brutti cani vaccati, meno male che non sto usando lineare, c'è lo strumento attaccato. Con lineare partono i finali subito, mio occhio, sensazionali sono troppo elevate. Va bene, riprendete, sono in cucina, ciao, vai Claudio. Ehi, va bene, dai, la posso chiudere Marco, sempre il microfono normale, va bene, sì? Sì, se non vai oltre 5 watt ancora va, ancora tiene, però una domanda, ma l'alimentatore interno, come mai si abbassa così la radio? L'alimentatore interno li supporta i 10 watt? O è fatto a filo, proprio a filo per i 4 watt di fabbrica? L'alimentatore a 220? No, mai sta andando a 10 watt, no, non mi sa com'era. Stavo vedendo se si poteva tirare qualcosa, ma l'ho rimesso com'era. Così sono allora 3 watt e così sono 5 watt. Così a 5 watt, no? Disinserisco anche il DX Power, così sono 5 watt Marco. Non di più. No, l'ho rimesso com'era, no? Era solo una prova, no? Non la tocco, la scelta è originale. Dipende dai watt del modulatore, no? Il finale RF c'ha 5 watt e un modulatore 5 riesce a modulartela al 100%, chiara, forte, brillante, pulita, lineare. E poi tu tiri sul finale a 7, 8, 10 watt e la potenza dello stadio finale del modulatore è sempre la stessa, la modulerà al 70%, al 65%, quindi ecco perché senti la radio che si abbassa e diventa così percentualmente meno modulata, perché la potenza del modulatore rimane fissa, tu vari quella della potenza del RF e quindi il modulatore non ce la fa più a modularla al 100%. No, ma infatti lascio una prova, Vito, ma già modula, anche 10 watt modula benissimo, non c'è problema, però l'ho messa a 5 watt, anzi 4 watt abbondanti, modulati sono 5 e mezzo, dai. No, la lascio così in originale, cosa non devo toccare nulla io. Avanti Marco, dai che la chiudo, dimmi se va bene che la sto chiudendo, ok? Da me va bene. Ascolta, una curiosità, cosa monta il 1969? Sì, 1969. Sì, è di quegli anni, mi pare fine 80, inizio 90, l'hanno fatta quella base lì. Va bene, dai, riprendi Vittorio, sono in cucina, impegnato. A dopo, ciao a tutti, vai Vittorio. Bene, nuova. Tutte quelle serie erano così. Tutto lì. Io per uscire bene al TS2000 l'avevo depotenziato, in maniera che la potenza del modulatore ce n'era in avanzo, anche col microfono normale usciva con una radio da favola, proprio perché l'avevo diminuita, quindi riusciva tranquillamente anche con il suo microfono dinamico a modulare al 100%. Manamera, e anch'io vado in cucina un attimo, già lo tengo acceso, al limite si sente rocco. Ehi Vito, d'accordo, a dopo. Cappa, dai. Adesso se mi gira le palle, domani vediamo un po' cos'è successo. Sarà lo stub, sarà, è mezzo mullato, ma io ho fretta a manetta, beh. Ma cosa c'è il bip questa cosa? Toccato, sento un rumore, cos'è il bip c'è? Ah, che bip è? Lo normale, bip, normale, classico. Ok, dai, allora li lasciamo. Va bene. Ciao, sempre andando sta adesso? Sì, sì, sempre tutto K di Roger, già va bene. Mi ho preso un colpo, mi ho preso. Anto, c'è un bel vento, c'è un raffico di vento, quell'antenna, te l'ho detto in partenza, è un'antenna un po' debole, un po' particolare, capito? Che quando c'è vento, se non è fatta ancorata, messa in una certa maniera, l'oscillazione stesso ti crea dei problemi a quella spirale che c'è, capito? Ma non è un problema, bisogna fare dei lavoretti, delle cosettine, ma quello si vedrà adesso in primavera a tempo buono, capito? Ma se mi fa così io c'ho un po' di paura, Clara. Cazzo, io già botto. Lo so, devi essere pronto a tutto, perché quell'antenna, guarda, ti dico che a Mauro le punte gliela spezzata in due, proprio dove c'è l'aggancio del coso, il vento. Dove c'è l'aggancio dei cavallotti, già mai capito dove, gliela spezzata in due. Quindi è un'antenna un po' debole, ed è per quello che non è andata. È un peccato perché il funzionamento è abbastanza buono, solo che come è stata costruita è molto debole, voleva costruita con un materiale un po' più robusto, capito? Va bene, chiudo la radio, dai, stai sereno, non ti preoccupare, ok? Scappa. Ma mi pare che ne compare di un'altra, io, cioè, c'è la basso, mi incasinato, o mi piglio l'altra, là. Come quella che c'ha Gianni, o qualche antenna del genere, perché questa cosa a me non mi piace per niente oggi. Guarda, quell'antenna lì, la Game Master, stai dicendo, ne ha una Lucca, nuova, e la sta dando a un prezzo molto, molto interessante. Fai un sacrificio, gliela blocchi, capisci? Gliela blocchi e te la prendi. Un mese ne dai una parte, un mese ne dai un'altra, te la blocchi e te la prendi. E quella è la signora antenna. Quella al vento non le fa niente a quell'altezza dove la devi mettere tu. Scappa, questa qui ho anche paura a attaccare niente, perché ho un po' di paura che ho adesso. Allora sto uscendo a pochi watt adesso. Un sacco di paura c'ho. Cazzo, se me lo fa cazzo qualcosa attaccato, brucio tutto, e c'è un uomo e... Ehi! Spacca io allora! Ehi, avanti! Lu! Gappa gappa! Perché stai scendo così, Lu? Male, Cla! Stai scendo male, sì! Io ti sto ascoltando con questo Intec! Microfono male, però Antonio lo ascolto bene, ascoltavo bene a tutti! A te ti sento tutto gracchiante, come mai? Gracchiante? Questa 5, prova così, vedi un po' com'è adesso che ho abbassato. Rumore di vento da sotto. Sento un rumorino, però è migliorato, no Vito? Sì, ma sento sempre. Scappa, scusate per le bestemmie poco fa, ma quando vedo qualcosa che non va bene io scatto male. Prova Luca, prova un attimo, vediamo. Guarda, Anto, roba seria devi mettere, roba seria. Ok, vedi un po' qua. Sì, va bene, dai, così va bene. Datemi il tempo che chiudo questa radio, dai, che l'ho messo la lampadinette. E ho fatto alcune tarature, adesso va bene. Ok, dai, va bene, va bene. Oh, Lu, ma tu domani come sei messo? Domani mattina? Ho sentito rumore di alternata e non ho capito cosa hai detto. Ho detto puoi portare quella roba. Vedi, c'è un casino di roba, poi no, come faccio a portartela? Devo andare, non lo so, già ci aggiorniamo domani mattina se sei a casa, beh. Perché devo andare a prendere l'altro microfono che non ce l'ho qua. Vabbè. Devo andare in campagna a prendere l'altro microfono e caricare tutto, capito? Come sta andando questo normale, microfono normale su originale? Anche troppo amplificato, per essere normale secondo me. La sua bomba, infatti, mi stavo ascoltando. Anche Roberto mi ha detto la stessa cosa. Va bene, dai che la chiudo. Riprendi Anto. Scappa, dai. Ah, oh, già va bene, già, Cla. C'è una bomba, sì, il controllo, no, che va tutto sotto controllo. Ma com'è che va via lo strumento attaccato e tutte le cose? Non ha già attaccato l'amplificatore? Se no, cazzo, mi sarebbe successo un patatrack. Cazzo, ogni paura. E vabbè, già non succede niente, beh, non ti preoccupare. Ok. Lu, ci aggiorniamo dopo su WhatsApp, dai, voglio vedere alcune cose, se no poi domani mattina inizio a portarti un po' di roba, se no no, che devo fare tre viaggi, devo fare, dai. Va bene, fatemi chiudere questa radio. Avanti Lu. Un attimo, a tu, sto mandando un paio di messaggi. C'è qualcuno che è rimasto? Tanto dammi il tempo di chiudere questa radio, poi rientro, aspetta. Però maestra, funziona tutta la perfezione, ma domani salgo però, voglio vedere, non ci sia nulla da vicino sub, mi si dire delle balle. Ma la fretta a morte, fai. Ma là c'è il capo a penzoloni che sbatte da una parte all'altra, no? Ma neanche no che se ne ha tratto. Tieniti il rosmetro attaccato. È già un grido, io sono tutto sotto controllo, sto modulando con tutto sotto controllo. Domani qua a Rugaggio, la gente è domani a Sossopra e a Baito, cosa, ragazzo, beh, no, non mi fido più. Eppure adesso devo togliere tutto quel grasso e devo vedere cosa si è attaccato bene. Ma è cazzo male cosa, è di 30 mucci. Ho sembullato che cosa? Può essere, Tu prima provati il capo, no? Muovi il capo e guardi cosa sta succedendo. Se il capo non ti difetta è l'antenna, per tanto. Non decidi il capo con l'antenna, da poi magari lo capo. Strano. Adesso l'ho guardato, così ho aperto, ho guardato, ma ho mosso il capo, ma no. Fatti a nulla, poco fa andò in dire che così era, quando oscilla il vento, un secondo come oscilla, cazzo mi fa questa cosa, può essere anche qualcosa che si è mollata, ma domani a far sopra io, cazzo, lo stringo gatto. Il segno con il pappagallo. No, oh, con lui non si stringe col pappagallo, ma pure, dai. È roba di BL però no. Ciò di Rudy Gue, cos'è? Quel gatto di filo è piccolino, che sicuramente si è appena appena mullato, magari una raffica di vento e mi ha fatto il subito problema. A te lo do Gue domani, lo tanto. E la stessa di yo-yo che piglio e piazzo l'altra, che ce n'è un'altra qua. Prova. Avanti. E no. Provato a montargli un altro microfono, ma pare che gli esca anche questo. Ho voglia che esce. Bene, dai, dai, sentiamo la prova. Chiappa. Mi sono un po' rilassato, lo spavento che ne ho preso. Mi ci avevi bruciato tutto. Avanti, chi è? Chi è che vuole entrare? Avanti! Chi è? Fallo col culo, che ti guadagni il pane, capo di gatto! Ah, perché sei maleducato, a tu! Ma è teso che ha fatto la barnacchia! Cazzo, meno male non ti hai detto scemo, se no cosa gli avresti detto? Da ribatti tu, chi è? Che so che fate che c'è goce! Non ho visto neanche il segnale. Osaccio. Non ti preoccupare che già in Kiwi. Avrebbe fatto col culo che c'era guadagnato il pane. Marco di catena. Va bene, dai, vado che devo fare un video. Un video. Aspetta, ma ti manda tutti, aspetta. A me. Un video a me. No, devo fare un video adesso, aspetta un attimo. Devo mandare le foto. Cappa. Ti piace le Luca Master? Cappa che mi piace. La stanotte dice che dura questo vento, poi dopo passa. Cos'è, Anto? Dice che dura pensamente a stanotte, poi dopo si mette il buon tempo, si mette. Chiuso, com'è? Va benissimo, qua. Va bene. Appa, paghi una meraviglia, paghi una bomba. Ok, dai, scappa del roccio. Dice che comunque da stavolta dovrebbe diminuire il vento. Insomma, pure la manta fa la ciuffiteggia. Cosa? Tu? Ho detto che pure la manta fa la ciuffiteggia per me. L'ho vista stamattina, ho visto, già la fate muovere un po', carino. Ehi, vabbè, ce la fa muovere già. Non ti preoccupare, siamo le fasi nute. Buona, ti giuro che se ne ero riuscito a procurarne una, cazzo, mi mettevo le staffe nel muro, qua cazzo me l'avrei piazzata, anche una mantova 5, perché sono le antenne che durano di più e sono buone. Addirittura, allora già va. No, ma stai tranquillo che non le fa niente, non ti preoccupare. Tu, usate, le trovi sempre a non meno di 70, 80, 100, capito? Dimmelo tu, Cla, dimmelo. Io gli ho già detto quello che deve fare, per conto mio, quello che deve fare. Bloccare quella che hai tu e poi prendersela, capito? Mi sto pagando gli occhiali adesso, non posso. Vabbè, tu le dici a quello degli occhiali, crede una bomba, capito? E si apposta. E scappa, dai. Adesso, dalla prossima settimana dovrei aver finito di pagare. E poi vediamo, dai, ci penso bene e poi proviamo questa Game Master. Secondo me è una bomba, secondo me. Secondo me fa bene, meglio di quella che hai, secondo me, poi. Beh, se non fosse meglio, cazzo, guai, se non fosse meglio. Ma secondo me va molto meglio, non lo so. Allora, posso arrivare a 9.20 e arriverò a 9.30, magari aumenta pure il segnale, niente di strano, niente di strano. Beh, sicuramente ci avrai più ricezione, più trasmissione, non lo so, Anto, ti ripeto, è sempre il problema della posizione in cui metti quell'antenna, tutto lì, lo sai come me, e quindi te l'ho già detto, poi sicuramente però l'antenna superiore qualche guadagno ce l'avrai. Scappa, mi hanno consigliato anche questa Venom, ma non mi fido, della Sigma, ma non mi fido. Questa è bella la modulazione, Lu, non è male. Telefono. Ah, Flippe, è sparito. No, va pompa, va bene. Già va bene, vai. Per essere microfono normale sono più che soddisfatto. Vanno con una cannonata, anda, Ocla. Vai, una cannonata quella radio. Va bene. Aspetta un secondo, mi sta chiamando mia moglie. Flipper, dove sei? Sei sparito, Aspetta, non lasciarti solo, dai, aspetta un attimo. Vabbè, non c'è problema. Avanti. E fallo guru, manco di catena. Invece c'ha va vita. Invece c'ha pu. Vabbè, Gesù! Oh, Lu! Sì! Ho ascoltato il coso, è bella la modulazione per essere un microfono normale, caspita! Lì ci metti un microfono preamplificato, SM10, MS10, un telegiammane, se vede pari buchi. Vabbè, se ci metti l'MB più 5, è un altro discorso. No, l'MB più 5 ci mettiamo, che ce l'ho tutti MB più 5 in vita, ci non li voglio altri microfoni. MB più 5 col connettore a 5, su originale, e va bene. KK. Ehi, già va bene. Bene, hai visto le foto della nuova Luca Master? Sì, l'ho vista. Bella. Cazzo, non ti fermi mai tu, eh? Ma aspetta che ti mando. La foto dell'originale non te l'hai mandata però. Di come è fatta l'originale. Oh sì, no, non te l'ho mandata. Aspetta un secondo e te la mando. Mi hai mandato quella delle bobine, boh, un sacco di roba mi hai mandato, non ci capisco più un cazzo, come volta stai sempre mandando roba, ma io non ne comprendo nulla. Guarda, questo è l'originale della Game Master, questo ti ho mandato adesso. Sì, ho solo ricoppiato i due pezzi sotto e sopra. Cazzo, il tubo già ci mette 5 ore per ogni pezzo a stampare. Se faccio anche il tubo mi ci mette 15 giorni. figurati tu. Facciamo la guardo. Esci a vedere. Aiutati, muovi. Devo resettarlo sul telefono. Un po' di cose c'ho. Ah, questo è quello originale. E cosa chiama la lista originale? È meglio lo do io. Vabbè, quella lì è... L'originale è fatta a stampo, capita estrusione e plastica, capito? La mia è un po'... un po' più grezza rimane, dai, perché mica una stampante penso da 2000 euro, no? Però già va bene lo stesso. E io allora già va bene. Ma questo pipì non lo sento io, com'è? Va bene. Classico, quello acuto. Ah, quello, ho capito, ho capito. E andava bene. E il segnale quant'è lui? Dai, no, che sono 9.20. 9.25 con le lucine qua. Ehi, 5 watt modulati quasi, sì, data. Già va bene. Però, quando abbassavi, uscivi molto più forte di radio. E allora passiamo, aspetta, TX Power, eccolo qua, TX Power. Guarda, così esce più forte di radio. Sì, ma l'ho notato anche poco fa quando stavi facendo i controlli con Marco. Dicevi, adesso è a 4 e la radio si aumentava. Andavi a aumentare e si abbassava la radio. Ah, il segnale è molto calato. Guarda, a vedere. E sei 9.5. 9.10, dai. 9.5, 9.10. Aspetta che lo metto. Ecco, così. Così, va bene. Accendo di nuovo 9.20. Ecco com'è. Scappa, dai, magari pochi watt, qua si passi da 9.25 a 9.15 passi, già andava bene, dai, cosa vuoi fare? Break! Mi ha doppio rumore. No, vabbè, ho regolato il TX Power, ce l'ho a metà, dai, non è molto alto, non è molto alto. Avanti Gianni, buonasera. Buonasera a todos. Dai, ho finito adesso con le grandi imprese di pulizia. Vado, vabbè, vi stavo ascoltando, comunque prove, ho ascoltato tutto, ma non potevo entrare perché stavo appunto facendo le pulizie. Va bene Claudio, ma è molto forte la radio, anzi se parli un po' più lontano dal microfono forse è meglio, perché se no te la fa troppo citofonica se parli troppo vicino. Ah, dai, ciao Gianni, dai, vieni per me che io vado a fare cosa giù, ok? Ciao Anto, dai, siamo qua, se vuoi rientrare poi siamo qua, avanti Luca. Era Vittorio quello, Luca c'è. A questa distanza bene va Gianni? Sì, adesso sì. Ok, dai. TX Power è a metà, perché se lo metto così dice che la modulazione cambia, confermi? Prova a fare tutti e due passaggi. Allora, così il TX Power è a manetta, ok? Mentre invece così è più basso, cambia la modulazione. A me sembra uguale, non lo so poi. A me sembra proprio preciso che non cambi nulla. Poi, non lo so. Andava bene, per il mio orecchio è così. Comunque è molto forte in entrambi le posizioni, dai, è forte la radio, va bene. Va molto bene, io mi ricordo che avevo un Intec FM500S che aveva il microfono così lo stesso, che usciva un bel forte. Abbassa la radio, doppio Roma, abbassa la radio. Sì, e cosa abbasso? Aspetta. Abbassa lo sguardo. Abbassa lo sguardo, allora. Come va? Siamo amici che non ti conoscevo, che ti hanno messo il nome, se no non ti stavo conoscendo. La static è static. Infatti già è metallica, quando è troppo sparata che sbiascica, però è Sì, sì, molto metallica. Sì, che è così, perché c'è la capsula ceramica. Conosco, li conosco. No, no, no, vabbè, va, statemi bene. Vittorio Giove, dai microfoni di Radio Venere, ciao. Ogni dato va cucù, ma com'è che ti lamenti che c'è anche la 27? Mi hanno dato un apparecchio, mi sto usando un apparecchio, io ho un amico che dice che non esce di modulazione, ma prima l'ho provato in laboratorio su carico fittizio, Anna me ne ha fatto. Adesso usiamo oggi o domani e vediamo un po', non sia qualche falso contatto nel cavo del microfono. Adesso provo. Cava cava, va bene, dai. Controllalo, ma a quanto pare sta facendo bene. Forse è un problema che c'è a casa, buh. Avanti a chi tocca. Eh beh, se mentre parlo non ci sono scariche, abbassamenti di modulazione, cose del genere, penso sia qualcosa da vedere lì, insomma. O c'è l'alimentatore che si siede, non lo so. Qualche problema ce l'ha. Eh beh, certamente che sì. Avanti Claudio. Ehi, va bene, va bene, va bene, dai. Io quello devo fare l'ho già fatto qua, adesso c'è attaccare solo l'MB più 5 e basta. E boh, per il resto tutto ok. Ho fatto la registrazione allo Smith, i segnali sono giusti come gli altri vintage, o come il K, per meglio dire, tutto ok. Microfono, questo è originale, sembra che sia, che vada bene, e tutto ok. Ok già. L'up down funziona? Sì, sì, sia dal microfono che dalla radio, alla grande. E beh, c'è il suo originale, no, non l'ho mica toccato io. Cosa gli hai fatto all'interno? Li ho aumentati i watt? No, no, solo dove si aumentano, ma li ho lasciati come sono. Sino a 10 watt si possono aumentare. Però l'ho messo a 5, perfetto. 5 modulati, con i picchi di modulazione va a 6 watt. E basta. Sì, già va bene così. Va bene. E le luci? Le luci messe, tutto bello, tranquillo, illuminato. E tutto ok. Tutto ok. C'era la colonnina, l'altoparlante, infatti era un po' gracchiante, non capivo perché. C'era la colonnina staccata, era penzoloni. Gli ho messo nuovamente gli incassi giusti, strette le viti, un po' di manutenzione, dai. Però va bene adesso. Adesso vediamo col microfono di tavola come va. E senza ombra di dubbio andrà meglio, più chiaro quello lì. E vabbè. Hai fatto un affare, là. Già va bene. Sono contento e siamo tutti contenti. Ce l'avevo già, ti ripeto, perché avevo bruciato il finale, quindi l'avevo dato. Per quello non voglio rischiare, non ci attacco niente, giusto per fare due chiacchiere, quando voglio fare due chiacchiere con il vintage ce li ho tutti funzionanti. Se no, cambio scrivania e vado col capo, non c'è problema. Beh ragazzi, io però mi devo allontanare perché anche stasera ci abbiamo gente che ha bussato con i piedi e quindi devo andare ai fornelli, ok? Vi devo lasciare un attimo, ci sentiamo tra un po', che devo mettere la carne al forno. Va bene, già torno subito, riprendi già. Sì, fai tranquillo, va, chi c'è rimasto? C'era Bombolo, Vittorio c'è, facendo ogni tanto capolino, sta facendo i lavori anche lui, ma comunque siamo qua, dai, non c'è problema. Io lascio tutto acceso, già mi sento lo stesso. Cavalava, attenzione Victor. Ne attacco un'altra, dai, faccio girare un po' perché sono un po' fermo questa radio. Ne attacco un'altra stazione base, tipo quella di Claudio, però c'ha due strumenti e più grande, dai, come radio. Metti che sentiamo. Va bene, ciao, a dopo. Bello, più rum, perso chi sei? Eh? Ma vabbè, sarebbe più rum. All, no, un po', così. Dovrebbe variare di potenza. All. Prova. cambio. Avanti. Buonasera. Qua, stazione base. E chi sei? Doppio rosso. È all'ombra, chi ti credi che sia? Adesso è più pulita la radio, prima è martellata. Sì, questo qua è un proxel, c'ha il microfono amplification. No, ma è molto, molto più pulito. Scappa gà, poi vabbè, c'ho l'imbarazzo della cesa. Ui, vabbè, scappa mio, tra una cosa e l'altra adesso. Devo scendere giù a fare le faccende. Mi sto ascoltando, dai. Ciao, ciao, fatte, fatte. Aspettaci, Vittù, mi si era incastrato un tasto, per quello ci ho messo tasto. Si era incastrato il tasto perché c'è quello AM, FM, SSB, eccetera, eccetera. Si era incastrato, boh, non capisco il perché, sono riuscito a disincastrarlo adesso, va. Non mi dava il canale. Ah, e questo, comunque non c'è un pulsantino qua, riesci a vedere. Cambia qualcosa così. Allora, così è posizione 1, posizione 1, così è posizione 2, cambia. Sì, posizione 2 è più forte, è più amplificato. Ma aspetta che facciamo stare zitto il computer. Ma così si sentono più rumore della stanza? Va bene? No, va bene, non si sentono rumori. È molto amplificata, ma rumori. Ma con che antenna stai uscendo, Vittù? Con quella che ci ho capottata, con la Mantova 1 che montai 36 anni fa. Quella che avevi bucato. una delle tante. KK. Già va bene. Oia. Qua, guarda. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5. Ho 5 stazioni radio con rispettivi alimentatori, eccetera, eccetera. Ma ti stai sbizzarrendo, va? No, basta adesso. Avevo detto basta, poi mi è capitata l'occasione, l'ho presa, ma adesso basta, no? Vanno bene queste di radio, tanto sono una che va meglio dell'altra, quindi vanno tutte bene. Se poi ti faccio sentire il mio Alan 48, ti spaventi. Io ne avevo preparato uno col doppio modulatore, la buon'anima di Carlo Pizzano, Porto Torres. Poi eravamo rimasti d'accordo che me l'avrebbe messo da parte, poi ha avuto quello che ha avuto e a me. Gatta. Io vorrei farmi l'impianto in macchina, ma non so se farlo, perché la macchina è nuova e bucare la cappotta non mi va. Mi piacerebbe passare il filo elettrico all'interno per l'elettricità e attaccare l'apparecchio. Così ci metto la magnetica quando mi serve e quando non mi serve la tolgo. Non è la stessa cosa, però meglio di me. Ai ai ai. No, rendemi, con la magnetica che c'ho, rende, ce l'ho da 22 di quelle grandi. E io già ho la base anche con i tre magneti. L'ho presa da fuori però. Sì, sì. Ah, quella che c'ho io, quella della Lemme, quella grande, 22 cm largo. Sì, già, basta, perché se no secondo l'antenna che metti te la, appena tocchi qualcosina te la butta giù. No, l'altro giorno ho toccato un albero, non me ne sono accorto, si è piegata l'antenna ma la base è rimasta ferma. Se attacca bene, sì, per staccarla è il problema, perché la attacca un bel. Io sul furgone la usavo quella magnetica, poi l'ho dovuta mettere fissa. Il furgone è alto 2,10 m, più l'antenna appena toccava piante, poi io ero in giro 16 ore al giorno, dovevo scendere 10 volte al giorno a rimetterla in piedi. Avanti, beh, doppio giù, insomma di vento, crocro. Eia, se vedi l'antenna mia, pari con la calata che ha preso uno squalo. Questa qua, guarda, c'è uno Smith, la cosa dello Smith che sta impazzendo. Adesso non fa massa bene, E la mia è piegata, l'ho guardata poco fa quando sono sceso giù col cane, perché stava sempre... giù, cosa c'hai? Ah, ho capito, scendiamo giù, ho preso, mi sono sceso giù vuoto, sono sceso giù e la diarrea. E quindi sicuramente gli c'era mal di pancia, povera. Anche lei oggi non è stata bene, poi te l'ho dovuto portare al veterinario, si leggeva in piedi già. Così, tutto in bianco, non si sa se ha preso una caduta, ha sbattuto la testa. Comunque adesso sta meglio perché ha mangiato, dai, si sta riposando. C'è ancora la Goccano attaccato. Vabbè, dai. Ciao anche a Vittorio, avanti Vittorio, riprendi. Ma c'era qualche altro che stava chiamando? Cosa? Io sono un po' di sblatter al 23, Blatter? No, questo non è sordo da parecchio, non ne sto prendendo, non ne sento. Vabbè, c'è un'antenna quasi coricata, 45 gradi. Vabbè, purtroppo ci sono vicini, proprio vicini, vicini, quasi attaccati. E un po' di colpi lo prende, vabbè, già riprende anche lui, perché lo so che ogni tanto si sente che si lamenta, nel senso che ci sono io, sul 10. Se vuoi te di dolori, lo piace di Deli. Dai, riprendete già, riprendi, cioè, sai che c'è anche Pomponi, avanti Pomponi. Abbassa la refreghina, fottidini, non c'è tipo. E se no ci mettiamo tutti con 10 mili, ma se ci sentiamo tutti, tanto siamo tutti in città. Sì, giusta osservazione. Sì, giusta osservazione, 10 milliwatt bastano e avanzano. Riesci a vedere questa cosa, sì. C'è qualche tasto, lo prendi, allora. Riesci a vedere. Così 5 watt. Mi sentite lo stesso? Quanti watt c'hai adesso? Mezzo watt. Quando modulo sale a 2 watt e mezzo. Io sono con 3 watt. 3 watt e mezzo dell'apparecchio omologato. E allora lo qui. Se facciamo tutti così possiamo parlare un baracchino in ogni stanza, non disturbare. Poi posso abbassare anche un va. Altro che più sentito, vabbè che ha avuto un lusso. A Gavino non l'hai più sentito. A chi Gavino? Il tecnico vicino a casa tua. Ah, no, non l'ho più sentito. E da quando è morta la moglie, poverino. Bene, infatti, immaginavo. Oh, yeah. Gavino Frau, poverino, io l'ho trovato, siamo fermati a parlare un po', però è un po' giù. Io voglio vedere. Kappa, già si riprenderà, là, piano piano. Anche lui si deve rassegnare, cosa deve fare? C'è chi l'ha preso in un modo, la moglie c'è chi l'ha preso nell'altro. Bisogna continuare. Pensate da quanto sei legato, dal carattere, da tante cose, no? Non sono comunque ostacoli facili da superare, poi se uno si sembra festeggia. E certo che non sono cose belle, dai. Sai che si butta a frusciava? Ti sei messo? A fischiare, nel canale vicino. Bobo, non è tanto viene una. Noi uscendo con i milliwatt per non dar fastidio a nessuno, e loro porcellini. Io qua c'ho un watt adesso, guarda vedere come sta andando, come segnale, come solo, dove sei a casa di tu. Ehi, cioè, c'ho un'antenna mezzo capottata, sono uscite le staffe dal muro da inclinata a 45 gradi. 9,20. Sì, io va bene, là. Però per l'antenna capottata come ho fatto vado bene. Sì, siamo da qui a lì, se facciamo la finestra ci sentiamo pure. Boia. Venticello, c'è venticello, speriamo che cali. Ho steso la roba, ma non sapevo se stesse la roba che c'era troppo vento, non faceva manco attaccarla al filo da stesso. Sì. Ti credo. Un disastro, quando fa così, volano anche tegole. Tutto vola, via. Pezzi di castrame dal tetto, di tutto. Non avevi visto via di Sicilia, cosa era successo? Che si è scoperchiata la casa. Sì. Quelli di quei tetti, sì. Aveva buttata per strada. Vabbè, là. Adesso questa qui ve l'ho fatta sentire, oh. Adesso ve la faccio sentire un'altra. Là, così. E gli fai fare il rovaggio. Andiamo bene, andiamo. Signor Riserva, ma vuoi parlare con uno? Hai finito anche tu? O ti spezzo? Ma vuoi parlare con uno? Comunque c'ho Antu, qua il vento tira un bel, sicuramente più qua che da te, perché è un bel forte, infatti c'ho uno smitter che sale e scende, che sicuramente col vento non mi fa fare massa bene, e sta in parte nello smitter. Oh, a me sicuramente quell'antenna me la butterà a terra tra stanotte e domani mattina, ma pazienza. E tu casino, bobo, mamma mia come sto. Dei tempi, aspettavamo quando a chiudere la propagazione, a fare due chiacchiere, con Sant'Antioco, Villa Cidro, Cagliari, com'era là quell'altro, la città dei fiori della Liguria, dietro la Corsica poi. A parte con Sanremo, ma parlevamo con La Spezia, no, vicino, e niente, dietro la Corsica. Si aspettava quando saliva il Correo nella notte, alle 2, 3, 4 del mattino, a fare collegamenti con qualche chilometro in più. Bello casino, bobo, andiamo. Chiata! Sempre lì il mulinello, no, è sceso. L'occhio del ciclone sotto la Sicilia adesso. Allora, Gianni, come è andato Gianni, Vittorio? Senti, Gianni Luna so. No, quello è sempre addormentato una sedia. Gianni doppio ru. Si è addormentato anche in laboratorio. Sta cambiando un'altra radio. Ne aveva cambiato. Sta mettendo la terza perché l'ha sentito. Ehi, dai, io ho trovato un adattatore che era a 5. Pensavo fosse una prolunga, invece è un adattatore. Come sto andando, Vittorio? Bene, Chiara e Linda. Bella amplificata, no? La stanza è un po' vuota, però già va bene. Ancora, ma la gente, c'è il computer acceso qua, sta frullando, non ho capito perché, c'è polvere, lo dovrò aprire, a pulire. C'è la gente, del computer a manetta, si sente molto? No, va bene, Vittorio. Bene, nera. Ma che c'era anche Luca Manicomio? Luca Catarella. Catarella. Doppio, è solo il vento che si sta sollevando, la mazza che tiene fare, ma ha fatto interfante, ha fatto gli annettatori direttivi. Luca Catarella. Un attimo, sto controllando una cosa, Claudio. Poi dimmi cosa ne pensi. Chiarissima, meglio dell'altra, molto chiara, limpida, recuata. Questa è sempre la stessa radio, però sto usando l'MBP5 con l'adattatore. E tu che non avvidi l'adattatore, Gabo? Invece già abbiamo fatto una trozzata, perché quella prolunga che ti ho letto, capito? Quella prolunga che ti ho letto è da 4 a 5, da 4 a 5. L'ho provata adesso, prendendo un paio di spezzoni proprio per fare l'adattatore. Sai che controllo questo alimentatore, si deve essere staccata la... Ehi. Andiamo bene, dai. No, è giusto una prova, perché poi faccio la connessione sua. Ora. Cazzo, mi si era staccato l'adattatore. Dimmi come esce questo apparecchio, cambio. Benissimo, come devi uscire? Alla grande. Ora avanti. Cos'è questo? Bene. Del 48. Vabbè, a quello non smentisce mai. Quindi va bene l'MB+5 già su questa radio? Sì, si adatta molto bene. È chiara. Ma forte, si sente l'amplificazione, va bene. A voglia. No, la cacchina, grazie. Perché non è suo questo adattatore, mi si stava attaccando. Va bene, dai, era giusto una prova. Adesso passo all'altra base, dai, all'altra scrivania, sotto le palle già con questi vintage, li abbiamo provati, vanno bene, adesso c'è solo da mettere il microfono. Allora, vi saluto, vado a accendere il caminetto che ci vuole. E io ci tengo i sifoni accesi, siamo a 23-24 gradi interni, figura, quindi sono dentro, figura. Si sta da Dio, veramente da Dio, poi questa stanza che non è molto grande, con tutte le radio accese, a 2,20 c'è un bel calore. Anch'io sono leggero, ma adesso arriva mio figlio, la moglie, cena, quando sto vicino al caminetto assaggiando vino buono, cioccolata, cose così, prima di cena fa piacere. Ci si sente, ciao a tutti, alle prossime, Vittorio Giove, Querti Mau, bye. Oh, ciao Vittorio, ci sentiamo, dai, mica ti fa ingrassare il cioccolato, poi non riesci a stare lì. Sì, capirai, razza di... No, già, c'ho il sensore io, quando arrivo a 98, tutto scatta la molla e si attacca il bruciatore interno. Pagappa, invece la molla è partita, bisogna che la cambi, perché ho superato il 98, quindi... Controlla perché questo si carica troppo, poi funzionano poco tante altre cose, bisogna tenere sempre peso, che tutto va bene. Vabbè, non lo supero di molto, però lo supera. Va bene Vittorio, buona serata, buon tutto, quando voi siamo qua. Avanti Claudio. Ciao Vito, saluto. Una terza cosa, quando vuoi fare due chiacchiere ci fa piacere, siamo sempre qua. E io ero 92, già sono 80, quindi 12 kg abbiamo buttati, però basta, perché sennò diventa troppo brutta la cosa. Tocca rifare il guardaroba nuovo. Sto guardando il vento, insomma. La Maddalena Caprera, Santa Teresa e anche Portatore Sentino batte molto più forte di noi. Noi siamo quasi fortunati, un po' città tra le montagne, nell'Imbara, eccetera. Siamo un po' riparati. Non so se ce la faccio più tardi, se no domani. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Vito. E io già c'è cosa ho fatto, mi lascio il pigiama addosso, scendo giù col cane e metto la tuta sopra, caduto torno a casa, c'è qui a col pigiama. Ma che cosa pensi che faccia io? Non mi giampo, io dico mi cambio per non dire, però c'ho il pigiamone, che blu non si vede neanche. Mi infilo solo le scarpe a te, mi si abbatto. Metto giù molto pesante, berrettino, dopo, che ore sono? E sono già le 7, ancora è presto, e lo porto. Capito? Intanto sono qua sotto casa, già non cambia niente. Claudio, ma si sente l'eco? Ora, si sente, Gabbio? Si sente l'eco, anche le palle dell'elicottero si sente, va bene, devo toccare, lascialo così. Attenzione, 45. Avanti, chi è? Non è il canale 45, questo è il canale 10, capito mi hai? Buonasera, Antonio, a riserva. Se c'era uno con l'eco, sembra fare il 45, ho detto, l'eco è il 45. Attenzione, riserva ricca donna. Oia, beati noi. Ciao, Claudio. Ciao, ciao. Ciao, Antonio, buonasera, ben ascoltato. Avanti, bombolo. Buonasera, buonasera. E buonasera a tutti, anche a Antonio Riserva che lo sento più basso del solito, come mai? In campagna sì. Sì, sono in campagna, sto per andare via. Stavo facendo due passaggi così, li ho sentito, e ho detto dai, do un saluto. Tanto sono sicuro che quando arrivo a casa l'antenna non c'è più. Ma ti lo metto dentro la portata. Addirittura. Cattano. Ho visto quella di Gavino oggi, Claudio. Di Gavino che era pigiata, ma è un filo, è proprio fina quella antenna. Stamattina ho visto la mia quando stavo scendendo in campagna. Ma si muove, ma lo stilo di quella bomba, non è, se no non ci arriva a stanotte. La mia manco si muove, ed è a 45 più 6 sono 51 metri. Manco si muove la Mantova, c'è un sistema di parificazione allucinante. Manco si muove, ci sono solo tre tiranti a centro tubo perché li ho voluti mettere per sicurezza, ma... Purtroppo la Mantova era la Mantova, niente, io ho sbagliato, invece di prendere quella boomerang dovevo prendere la cosa, la... quella della Midland, la Energy 27. Quella è buona, quella c'è la Marco Condor, va bene. Lo so che va bene, che è buona, infatti alla fine c'erano 12 euro di differenza. Vabbè, ma già va bene anche la boomerang mia. Lo so già che va bene, ma se la porta via il vento, te l'ho detto, lo devi vedere la stamattina. Come stava dondolando, stava dondolando più della tua, io qui sono sceso perché per andare in campagna passo lì, ho visto la tua dondolando, ho detto cazzo, sta dondolando come la mia. La mia era tipo canale a pesca quando prende lo squalo. Lo so, ma la tua invece non è adatta per quelle cose, la mia no, non lo so se la scampa la notte, se non è che salgo sul tetto e mi metto